Letture di Radio 24. Nelle scorse settimane, mentre Roma ricordava i 70 anni dal rastrellamento al ghetto ebraico, Piergiorgio Di Freddi nel suo blog scriveva: «Le camere a gas? Le conosciamo solo dalla propaganda alleata». Questa e altre frasi di Odifreddi avevano scatenato una valanga di critiche, alle quali il matematico impertinente aveva replicato parlando di macchina del fango. In un editoriale su Panorama, Andrea Marcenaro ironizza sulle recenti esternazioni di Odifreddi, utilizzando come metro di valutazione la teoria della calcolabilità, cavallo di battaglia del celebre matematico. Il principale campo di riferimento del professor Piergiorgio Odifreddi è la teoria della calcolabilità, branca della logica matematica che studia la classe delle funzioni in grado di essere calcolate in maniera automatica. Va tenuto presente. Naturalmente è un illustre collaboratore di Repubblica, il professore. Naturalmente è ateo. Naturalmente, essendo ateo, ha dedicato un libro a Papa Ratzinger. Caro Papa, ti scrivo. Naturalmente, con il tempo libero di cui dispone, non essendo più Papa, Joseph Ratzinger gli ha risposto: posso soltanto invitarla in maniera decisa a rendersi un po' più competente dal punto di vista storico. Ciò che lei dice è avventato. Naturalmente, cioè, il Papa emerito dava del ciuccio al professore emerito. Questo succedeva il 24 settembre scorso. Il professor Odifreddi ha quindi piegato la propria conoscenza logica su Olocausto e dintorni. Le camere a gas le conosciamo solo dalla propaganda alleata. Chissà se sono davvero esistite, ha buttato lì. Che fa, vaneggia? Gli hanno fatto notare alcuni giornali, esclusa la sua Repubblica, che chissà che editoriali, se le stesse cose le avesse dette un brunetta qualsiasi. Ecco, contro di me, la macchina del fango. Questo succedeva il 20 ottobre scorso. Due sfondoni in 26 giorni. Una media scientificamente ipotizzabile di 14,1 minchiate all'anno. La teoria della calcolabilità, in cui Odifreddi è maestro, spiega che, secondo la logica delle funzioni automatiche, il professore, laureato nel 73, è stato diversamente ciuccio 564 volte minimo. Se la matematica non è un'opinione, il professore se l'è fatta con le sue manine, la macchina del fango. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Andrea Marcenaro, il professor Odifreddi e l'Olocausto, da Panorama del 30 ottobre. Non sappiamo se Odifreddi riuscirà a dimostrare che il suo antisemitismo è solo una macchinazione mediatica. Quello che invece è stato dimostrato, almeno secondo i giudici della Corte d'Appello, è che una vignetta che raffigura una donna ebraica con il naso ad unco e con la stella ebraica affiancata da un fascio littorio non è antisemita. Peccato che nel corso del processo il giudice abbia parlato di razza ebraica, un'espressione che non dovrebbe mai essere usata, commenta Pierluigi Battista in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. La brutta notizia è che nei giorni scorsi in appello è stata confermata la condanna di Peppino Caldarola e Antonio Polito, colpevoli il primo come autore di un articolo satirico, il secondo come allora direttore responsabile del Riformista, di aver bollato come antisemita una vignetta di Vauro, in cui una donna ebrea veniva raffigurata come un mostro, con la stella di Davide affiancata provocatoriamente a un fascio littorio e con il naso ad unco in bella evidenza, tipico stilema dell'iconografia antiebraica da quasi un secolo a questa parte. La buona notizia è che almeno la beffa non si aggiunge al danno, perché è stata revocata la pena pecuniaria con cui i condannati, per i quali non esiste la libertà di critica e di satira, avrebbero dovuto gratificare le finanze di un vignettista che ha raffigurato un'ebrea con il naso ad unco. La pessima notizia è che, appena celebrati i 70 anni della deportazione degli ebrei di Roma verso i campi di sterminio, nelle aule di giustizia italiane circolano quelle che Rosellina Balbi chiamava «parole malate» nei confronti degli ebrei anche in un ambiente istituzionale che si suppone impermeabile alle degenerazioni del linguaggio oltraggioso nei confronti del popolo ebraico. E infatti, Il giudice che presso la Procura di Roma ha confermato la condanna di Caldarola e Polito, negando il contenuto antisemita della vignetta in cui Vaur ha mostrificato un'ebrea con il naso ad unco, nel corso del suo intervento ha adoperato un termine sovraccarico di connotati negativi e cupamente legato a un passato che speravamo fosse stato superato. Ha parlato di razza ebraica. Ora, razza ebraica non si deve usare mai. Mai, per nessuna ragione. Perché oltre a essere un termine insensato sul piano scientifico, è offensivo e denota una rozzezza lessicale, un'ignoranza della storia e un'insensibilità che davvero lascia stupefatti. C'è un giudice a Roma che usa insomma impunemente razza ebraica. Cosa dobbiamo pensare della giustizia romana e italiana? Inoltre il giudice, senza nemmeno quel minimo di prudenza che si dovrebbe ritenere implicito nel ruolo ricoperto, ha liquidato così le rimostranze della comunità ebraica italiana, che, d'accordo con Caldarò, si è sentita offesa dalla vignetta di Vauro su una donna ebrea tratteggiata con il naso ad unco della tradizione antisemita. Gli ebrei sono suscettibili. Proprio così. Gli ebrei sono suscettibili. Lo sapevano i responsabili del Tribunale Romano, del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura, che a Roma c'è un giudice che considera suscettibili gli ebrei che si sentono oltraggiati dall'iconografia antisemita? Lo sapevano? Proprio all'indomani della cerimonia con cui si è voluto ricordare la deportazione degli ebrei del 16 ottobre del 43, che la razza ebraica viene considerata troppo permalosa, troppo ombrosa, troppo sospettosa? Suscettibili e con il naso ad unco. Insopportabili, no? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Le parole malate in tribunale, dal Corriere della Sera del 28 ottobre. Letture di Radio 24. Tornano nelle librerie, dopo molti anni di assenza dagli scaffali, le novelle scritte da Bruno Cicognani tra il 1915 e il 1955. Le sue storie appartengono alla tradizione naturalistica e sono caratterizzate da una profonda partecipazione alle vicende dei suoi personaggi, spesso in lotta contro un destino avverso, come quello di Marta, una donna che si accontenta di amare un uomo senza esserne ricambiata, convinta che nessuno possa amarlo più di lei. Lui, Pietro, neolaureato in medicina, prova per lei una profonda simpatia, ma nulla di più. E intanto gli anni passano e Marta si avvicina ormai alla trentina. Pietro, intanto, aveva vinto il concorso di chirurgo ordinario in un ospedale di provincia. Marta andava, i giorni di consultazione, a trovarlo. Appena qualche minuto. Le avevano detto che egli aveva contratto una relazione in provincia. Che le importava? Non s'era curata neppur di sapere se la persona era giovane o vecchia, bella o brutta, maritata, le avevano detto. Che le importava? Nessuna poteva amarlo come lo amava lei. E quei minuti due volte la settimana erano per lei l'annullamento d'ogni malinconia in un'ebbrezza che la sollevava in una sfera di celestiale esistenza. Pietro le faceva festa come se ella non fosse una donna con le esigenze, le debolezze, le seduzioni d'un'altra donna e di una donna che lo amava. Lì, tra le vetrine dei ferri chirurgici, accanto al lettuccio metallico, in quella frigidezza di vetri, di ferri, in quella disumanità, sedevano sul canapè e Pietro arrivava perfino talvolta a posarsela sulle ginocchia, ma come una bambina. E Marta, allora, gli cingeva il collo col braccio. E tutto questo, in lei ardente, era casto. Pietro a un certo momento la guardava fisso e ridendo con quel suo riso a gorgoglio, scema. E allora rideva anche lei. Ridevano insieme. Scema, scema, Marta la scema. Le piacque il nomignolo. E così sempre chiamò se stessa, con le persone di confidenza. Finché avvenne che un giorno avvertì un nocciolino in una mammella. Il nocciolino non era dolente, ma ella lo sentiva esistere e questa sensazione non l'abbandonava mai. Dopo tanto tempo, le venne fatto di parlarne una volta che era sulle ginocchia di Pietro. Egli s'annuvolò e, bruscamente togliendosela di sulle ginocchia, «Spogliati!» Marta lo guardò smarrita. Egli aveva la faccia contratta e lei cominciò a sganciarsi la camicetta Le tremavano le dita. Era estate. Sganciata la camicetta, si fermò. «Avanti!» C'era nella voce un'impazienza irritata. Marta si sfilò la camicetta, si sbottonò dietro le spalle il reggipetto e lentamente mise a nudo la mammella sinistra. Egli vi gettò appena un'occhiata come se fosse stato un oggetto. «Stenditi sul lettuccio!» Marta, più che mai smarrita, vi si distese. E allora egli contemplò a lungo, col freddo e penetrante occhio del clinico, la mammella. Una mammella di vergine, piccola, soda, rotonda, ma il capezzolo retratto. Poi, corrugata la fronte, incominciò la palpazione. Eccolo. Duole? No. Un soffio perché ella godeva d'un godimento insperato. Egli dette due tocchi al capezzolo. Il capezzolo restò retratto. Marta credeva di venir meno. Rivestiti. E mentre ella si rivestiva, egli passeggiava in su e in giù per la piccola stanza. Bisogna che tu ti operi. Entrò in casa di cura e dopo 8 giorni, una mattina che gli oleandri fioriti nel giardino odoravano, fu portata il corpo quasi nudo, avvolto in una grossa coperta di lana, nella sala operatoria. Uno degli assistenti la liberò della coperta e con l'aiuto dell'infermiera l'adagiò sul lettuccio. Si scopra fino alla vita. Sì, tutta, giù fino alla vita. Marta obbedì. Nessun occhio d'uomo l'aveva vista ignuda fino a quel punto. Ma a lei non importava né dell'infermiera, né dell'assistente, né dell'altro che le era accanto, già con in mano la maschera per addormentarla. Ella cercava, con un tremore in cui era tutta la passione d'una donna che si dà, Pietro. Ecco che ella stava per mettere il suo corpo nelle mani di lui. E Pietro, di quel corpo, avrebbe fatto strazio. Che importa, se in questa forma le era concessa la felicità. Egli le voltava le spalle, assorto nei preparativi dell'operazione, con la suora al lato. Quando si volse, Marta vide in un primo momento un altro uomo, ignoto, ma all'avvicinarsi di lui, l'immagine riacquistò il vero aspetto. Ella, ora tutta un tremito, istintivamente fece un gesto per coprirsi il petto così tutto nudo. Egli le prese il polso e accennò all'assistente che assicurasse l'immobilità delle braccia. E sopra di sé legata, Marta vide posarsi per un istante, apparentemente impassibile, lo sguardo di Pietro. Socchiuse gli occhi ed ecco sulle palpebre il battere a martelletto d'un dito. Riaprì stupita gli occhi. Il sorriso giocondo e ironico di Pietro, un lampo. L'assistente che le era a fianco, a un cenno del chirurgo, le avvicinò al volto la maschera imbevuta nell'etere. L'impressione sul petto d'una punta che incide. Ma ella stava passando in un altro mondo. L'anima assorta ora in una visione. Un prato cinto d'oleandri fioriti. Dolce e scherzosa, una voce al suo orecchio ripete senza fine a cadenza: Marta la scema, Marta la scema. E lei offre a Pietro, dono del suo amore, la mammella che egli le ha recisa. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del racconto Marta, tratto dal libro Le novelle 1930-1955 di Bruno Cicognani. Mauro Pagliai, editore, 376 pagine, 24 euro. Leggere i romanzi aiuta a sviluppare la mente meglio della matematica e delle scienze esatte. Meglio Thomas Mann che Albert Einstein. Qualunque opera letteraria si scelga, a beneficiarne non saranno solo l'erudizione del lettore e la qualità del suo tempo libero, ma anche la capacità di relazionarsi con gli altri e di comprendere il mondo in cui viviamo. È la tesi avvalorata da una ricerca pubblicata da Science, giornale edito dalla principale società scientifica statunitense. Gli autori, David Comer Kidd ed Emanuele Castano, dimostrano attraverso 5 test che la fiction letteraria ci fa capire meglio la realtà di ogni ricerca storica, sociale o scientifica. Il segreto? Leggere cose inventate e fantasiose aumenta le nostre capacità emotive e quindi cognitive. La letteratura, ma attenzione, quella di qualità, per il cervello è un balsamo. Gli studiosi provano insomma che la capacità di comprendere gli stati mentali degli altri può essere educata e sviluppata grazie all'arte. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Più leggi, più cresci, dall'Espresso del 31 ottobre.